passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Sai che non va la vita come ragazzo mio. Ci son volpi di quelli stufanti di la mille topi, tutti per te. Le zanzare che pungono me sono le stesse che poi pungeranno te. E tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai giorno. La voce è un po' bassa, la voce è un po' bassa. Ah, ecco, si alza adesso. E se i piccioni spariscono, tutte le papere piangono. Bene, bene, ti sento carico anche stasera. Siamo qui alla Zanzara, 800 24 00 24. E qual è la frase più democristiana del giorno? La frase più democristiana del giorno, caro Parenzo, è quella pronunciata dal Presidente del Consiglio Monti a proposito della riforma sul lavoro. Ci sono alcune anticipazioni sul reintegro o per l'indennizzo per i licenziamenti disciplinari o licenziamenti economici, tutte materie molto complesse. Però senti che cosa ha detto Monti. Sarà redatto un verbale sulle posizioni di accordo o disaccordo delle parti sociali che costituirà la base di proposta che il governo presenterà successivamente al Parlamento. Non ho capito niente. Cioè ci sarà un'ipotesi di accordo, anzi no, un verbale, sai come i verbali dei carabinieri, no? No, i verbali, non ho capito niente. Parti di accordo, parti in disaccordo, e tutto questo no. Verrà trasmesso in Parlamento. I verbali no. Ci vuole un brunetta. Ho un'esclusiva. Chi è l'esclusiva? Cos'è? Salve, lei è il sostenitore del governo Monti, no? Sì, Monti? Pronto? Pronto? Da dove? Giappone? Monti? No, Cina? Sì. Ah, buono Monti, no? Buono Monti? Sì, è un sostenitore del governo Monti. Sì. Era un delegato del governo cinese. Sì, ma veramente era un turista cinese a Siena. Comunque, no. Vabbè. No, vabbè, vabbè, le comunque, cambi, sentiamo. Scusa, sentiamo le cambi inchieste di Parenzo. Sentiamo Brunetta sulla Fornero. Ah, Brunetta sulla Brunetta, Fornero. Vabbè, Brunetta. Ci vuole sempre un Brunetta a risolvere la giornata. La decisione deve essere del governo, possibilmente da vecchio Liblab con l'accordo del sindacato, ma anche se l'accordo del sindacato di tutto o in parte del sindacato non ci fosse, il governo deve decidere comunque, come ha detto Monti, come ha detto la Fornero, quindi forza Fornero. Beh, Brunetta è diventato un grande fan del governo, in particolare della Fornero, e molti esponenti del centrodestra hanno fatto, cercano di far diventare la Fornero una sorta di simbolo del liberismo, eccetera, eccetera. E escono anticipazioni, ripeto, per i licenziamenti disciplinari, ci sarà l'indennizzo e il reintegro per quelli economici. La stessa cosa, anzi no, l'indennizzo, solamente l'indennizzo. Vabbè, sono tutte materie complesse, però voglio farvi sentire le grandi discussioni della regione Lombardia. Oggi si è parlato di una frase che avrebbe detto, che ha detto il governatore Formigoni a un consigliere dell'Italia dei Valori che si chiama Zamponi. Ah, come no, Stefano Zamponi, il capogruppo, certo. Sì, sai che qual è stata la grande discussione oggi? Il Pirla. L'avvocato Zamponi. Il Pirla dato da Formigoni a Zamponi, sentiamo. Sei un Pirla. Il presidente Formigoni mi ha dato del pirla. Vedo no, prego, che scusate, l'applauso è proprio fuori posto. Vedo che annuisce, prego. Vedo che se ne compiace, lo sfido a ripeterlo nel microfono. E chiedo formalmente, ai sensi di questo articolo, che lei lo censuri. Sei un pirla, e c'è la faccia da pirla, e gli occhiali da pirla, e sei vestito da pirla. Io in effetti ho detto al consigliere Zamponi, anzi per precisione al consigliere dimissionario Zamponi, gli ho detto pirla informati. dove Pirla è vocativo, avrei forse potuto dire o Pirla, virgola, informati. Informati, no, è la verità, riconosco. Dopodiché, incredibilmente, lo stesso Formigoni dice Pirla a Milano non è un insulto per due sentenze del Tribunale. Questo è il tempo perso alla Regione Lombardia per una frase pronunciata da Formigoni a Zamponi. Non so se vi rendete conto della follia totale. Io attiverei una commissione d'inchiesta, farei. Sì, perché no? Perché non aprire una bella commissione d'inchiesta sulla... ha pronunciato o no la parola Pirla? E soprattutto, se l'ha pronunciata, la parola Pirla è un insulto grave oppure può passare come una discussione politica normale? Sei mesi di lavoro. Abbiamo già un ospite, te lo presento subito, volevo farvi sentire un Di Pietro sulla corruzione, sugli scandali, eccetera, ma lo facciamo sentire dopo. E beh, insomma, un ospite caldissimo per quello che accade oggi a Palazzo Chigi. Ed è Giorgio Cremaschi, FIOM, buonasera. Buonasera a voi. Dove andiamo? No, dove stai? In treno? Moderato. In treno, naturalmente. No, sono appena staccato, ero sotto Montecitorio, che eravamo in manifestazione di protesta appunto a difesa dell'articolo 18, ero lì sotto. Ma già protesta lei? Ma ancora non è stato abolito. Ancora non è stato toccato nulla, già protesta. Beh, ma a parte che non è vero, è che è un bel po' che toccano, ma in ogni caso, come si dice, meglio mettersi avanti col lavoro. Ah, beh, certo, meglio portarsi avanti. Visto quello che preparano. In ogni caso, però, sono d'accordo con lei, se dite spesso, cioè, questa cosa del verbale è una ridicolaggine post-democristiana, no? Non capisco bene neanche io cosa diavolo vuol dire. Beh, sì, non niente di buono. Il verbale. Mi pare è solo un modo per dire che non siamo riusciti a andare d'accordo, ma proveremo ad andare avanti lo stesso. Io sono dell'idea che anche per confondere le acque. No, è un modo per dire, diciamo, il governo ha un'idea di massima, non c'è l'accordo con i sindacati, presentiamo questa roba in Parlamento e poi vediamo quello che succede. Il governo un po' se ne lava le mani, bisogna dire la verità. Io su questo magari sinceramente spererei che fosse così, ma non credo proprio, perché il governo ha firmato una cambiale con la BCE, quindi quelli sono esattori duri e quindi secondo me verranno a riscuoterla. Purtroppo questa è la verità, noi eravamo la verità è che il taglio dell'articolo 18 è chiesto dalla Banca Centrale Europea. Senta, quindi... ma in realtà quello che viene fuori, mi sembra che ci sarà il reintegro solamente per i licenziamenti discriminatori, sul resto in realtà il licenziamento sarà più facile, questa è la realtà. Non c'è più il reintegro, perché per usare il linguaggio colto dell'Assemblea della Lombardia, io non ho mai incontrato, ho fatto il sindacalista ormai per quasi 40 anni e quindi vado in pensione per dirla. Sì. Ecco, non ho mai incontrato un padrone così pirla da licenziare uno dicendogli ti licenzio perché hai gli occhi azzurri, ti licenzio perché sei vegetariano, ti licenzio perché sei ateo, musulmano. Cioè ci sarà sempre un motivo per licenziare. Un altro motivo, assolutamente, ma non ne ho mai incontrato uno. Però Cremaschi, più lei... discriminatorio non è vietato dall'articolo 18, è vietato dalle convenzioni ONU, tutto il mondo, proprio perché ovviamente è così enorme. L'articolo 18 non è sui licenziamenti discriminatori. Sì, però scusi Cremaschi, io mi sono fatto anche un'idea che più lei è incazzato e più lei manifesta. Secondo me, più l'accordo mi sta bene, io lo dico subito questo, cioè più Cremaschi è arrabbiato e più bisogna esultare, secondo me. Mi pare chiaro che abbiamo posizioni diverse, questo si è capito. Credo che non sia questo il punto, è un punto scontato. Credo che mi chiami perché sa che ha delle posizioni diverse. No, ma certo, non c'è dubbio. Senti, discutere con chi ha delle posizioni diverse. Cremaschi si prepara una stagione da biennio rosso, dica la verità, un bel biennio rosso. Perché biennio rosso? Non ho capito, che c'entra biennio? Non so, perché vuole mettere dei limiti agli anni. Vediamo. Di fronte a quello che si prospetta. Noi ci accontentiamo, il 31 marzo faccio un piccolo spot, facciamo una manifestazione a Milano e la chiamiamo Occupiamo Piazza Affari. Quindi in sintonia per capirsi con i movimenti che ci sono in tutto il mondo. Però scusi Cremaschi, io voglio capire una cosa. La prima manifestazione contro va bene, d'accordo, Monti, voglio capire una cosa, se sono questi i termini dell'accordo che si prospetta, la CGIL che deve fare? Firmare assolutamente, domani c'è il direttivo e fare subito, indire subito uno sciopero, Beh, io se fosse per Beh, lei, fosse per lei. Io sì. fosse per se lei. Se fosse per me, sì, su queste basi, perché ripeto, l'articolo 18 non c'è più. Come sto cercando di dirle, l'articolo 18 non è nato sul licenziamento discriminatorio, che ripeto è una cosa che ne succede uno su un milione, è sì. Nato sugli altri licenziamenti, sui disciplinari e su quelli economici. Dunque non esiste più, di fatto quindi, non esisterebbe più. Sì, non esisterebbe più. E siccome la CGIL 10 anni fa esatti ha portato in piazza 2 milioni di persone, 3, sì. per impedire questa cosa, credo che dovrebbe tornare a farlo. Eccoci qui, 800 24 00 24, la Zanzara. Siamo con uno dei dirigenti massimi, caro Parenzo, della FIOM. Ma tu lo sai che la FIOM no. È praticamente un partito, caro Parenzo? Ma cioè, diciamo così, che il signor Cremaschi è quello che sta tenendo, usiamo un'espressione non volgare, sotto scacco la signora Camusso. Beh, adesso sotto scacco, sì, un po' sì, perché le diciamo, piace forse Cremaschi, sapere, e la FIOM è determinante, perché sennò, diciamola tutta, la FIOM ormai è un vero e proprio partito, caro, sì. Caro Cremaschi, avete fatto pure delle felpe, le felpe le usano, le fanno la Lega, quello da te, come no? I partiti sono quelli che si presentano alle elezioni. Beh, ma voi vi presenterete in qualche modo? No, assolutamente. Avete i vostri rappresentanti? No. Avrete i vostri rappresentanti? Come succede in tutti i paesi del mondo, i sindacati ovviamente cercano, dagli Stati Uniti alla Gran Bretagna, in tutti i paesi del mondo, in qualsiasi paese del mondo, i sindacati cercano anche di avere, certo, un rapporto là dove si fanno le leggi, però questo, da questo a dire che si facciano partito, io sarei assolutamente in no primo. Però voi siete, ormai un partito, siete praticamente un partito. Noi rappresentiamo una posizione culturale e politica. Ecco, ma voi per esempio che ci azzeccate, con la TAB, per esempio, perché la FIOM si occupa della TAB? Io mi sono sempre chiesto. Guardi, sì, questo è giusto dirlo, ma guardi, per due ragioni. Uno, perché da tempo ci sono rapporti, perché bisogna studiare la storia di quella valle, rapporti che vengono da lontano, eccetera. Secondo, perché noi non siamo d'accordo con questo tipo di grandi opere. Cioè, d'accordo, ma perché? No, no, perché vi, perché vi, come dire? Occupatevi dei metalmeccanici, non ma, della. Ma per noi occuparsi dei metalmeccanici, anche questo sa, è stata chiusa. Ma vi occupate anche di Palestina, ma vi rendete conto? Sì, vabbè, questo va bene, ma questo lo fanno tutti i sindacati, mi permetta, non è questo il punto. Se vogliamo discutere seriamente di questo, io le dico le nostre motivazioni. Sono stati chiusi stabilimenti che producono, non so, l'Iris Bus, è stata chiusa dalla Fiat ad Avellino, poteva produrre autobus ecologici, perché non ci sono finanziamenti pubblici per il trasporto pubblico. Quindi noi pensiamo, per dirla terra a terra, che i soldi che si spendono per le grandi opere dovrebbero essere investiti invece nel trasporto pubblico. Ma quello locale, si può dire per tutto, si può dire per tutto. Se ci dice un interesse comunque, preciso. Ho capito bene, però Cremaschi, però lavoro concreto. No, ma ho capito qual è il collegamento. Però ormai la FIOM è un brand, mi dica la verità, ormai la FIOM è un brand, una specie di brand. Ma di questo noi non è che ci offendiamo, certo, cioè è il segnale di quella parte, non tutta, non nessuno di noi pensa, di quella parte del mondo del lavoro più radicale. Che non si arrende e che parla, certo, una parte della società italiana che non. E perché non me ne andate dalla CGIL? Perché non me ne andate dalla CGIL? Ma guardi, adesso questa la domanda, adesso io mi fa una domanda molto cattiva e quindi appunto risponderò con altrettanta cattiveria. Primo, non lo decido io. Se fosse per lei? Se fosse per me, io criticherei molto la CGIL. No, ma se ne andrebbe domani dalla CGIL? No, perché no. La CGIL, la FIOM ha fondato la CGIL, quindi casomai, ecco, chiederei, mi batterei moltissimo, forse anche più di quello che si fa oggi, di quello che faccio io oggi, perché la CGIL fosse ancora più vicina alle posizioni della FIOM. Ancora più radicale. È Camusso che deve andare via. La FIOM ha fondato la CGIL, nel 1906 la FIOM a fondare la CGIL. Dunque ci vuole più FIOM. Trova l'intruso, ma vedete il gioco, trova l'intruso, se va enigmistica, l'intruso sarebbe la Camusso, non la FIOM, questo è il punto. No, beh, adesso non me lo fate dire una cosa così cattiva. Abbiamo delle posizioni diverse. Vuole più FIOM nella CGIL, questa è la realtà, più FIOM nella CGIL. Beh, questo sicuramente. Certo. Senta Cremaschi, una CGIL che fosse, diciamo così, più di movimento. Di lotta, E più di lotta, secondo me oggi risponderebbe a tante parti del mondo del lavoro che non sanno come arrivare anche a organizzare le rivendicazioni minime dei loro diritti. Senta, ma lei la Fornero, la Fornero, come... Quella Fornero, come la definisce lei? In una parola, alcuni hanno detto addirittura la Thatcher, alcuni esponenti del centrodestra, la Thatcher italiana. Una definizione sua, caro Cremaschi. No, diciamo, sì, un invidioso della Thatcher. Ma invidiosa della Thatcher, cioè, vorrebbe fare come la Thatcher, ma in realtà non ci riesce perché in Italia... Invidiosa della Thatcher, sì, direi di sì. Invidiosa della Thatcher. Le è piaciuta questa immagine che le hanno dato i giornali, non mi piace assolutamente come ministro del lavoro, penso che abbia anche, diciamo, che le sue competenze siano molto limitate. Addirittura, professoressa. Sì, no, tecnicamente. Ma come tecnicamente? È esperta di queste cose. No, è esperta di pensioni, infatti ha fatto un disastro per noi, però bisogna dire che è esperta. Dopodiché su tutte le altre questioni, mercato del lavoro eccetera, le ha sentite, è negata. Intera, conoscendo la realtà del lavoro, guardi. Detto questo, mi pare evidente che è diventato, grazie anche a voi, un personaggio pubblico. No, grazie a noi, cioè il ministro, ruolo, che... voi non vo solo voi, io ho il santino, sa che io ho un piccolo santino collettivo. Ho un piccolo santino accanto al letto della signora Fornero, se non mi delude, piccolo santino. Ho visto. Allora, quindi grazie anche ogni a voi, tanto l'accarezzo, ogni tanto l'accarezzo la mattina l'accarezzo. Io parto sempre dall'idea di quella vecchia battuta si faceva nell'antica Grecia, cioè, per cui auguro buona salute alla Fornero e di restare sempre lì, perché c'era una volta che sfilavano un tiranno in Grecia, nell'antica Grecia, c'era una vecchia signora che diceva lunga vita, e allora uno le chiede dopo, ma perché gli dice lunga vita, c'è un terribile mascalzone, e la signora rispose, perché quello prima di lui era un po' meglio e quello prima di prima era ancora meglio, siccome ci va sempre in peggio, cosa verrà dopo di lui? Ecco, quindi a questo auguro lunga vita alla Fornero. Secondo me è un pessimo ministro del lavoro, uno dei peggiori tiranni, però guardi, no, a questo punto con tutti quelli che ci sono stati, o cambia davvero oppure non mi farà dire via la Fornero per metterci chissà chi. Ma secondo lei il governo ideale qual è? Il suo governo ideale, un governo con, lo so, nessuno in teoria, perché lei vorrebbe la rivoluzione, è d'accordo, però archiviata per un attimo la rivoluzione, il governo ideale. Io penso che il governo ideale è un governo che PD, DV, SEL sarebbe un governo ideale? No, con quelli che ci sono oggi. Io discuto, è un vecchio vizio da sindacalista. Un governo ideale, io discuto prima di tutto di che cosa vuol fare. Un governo ideale è un governo che mette in discussione la politica dell'Europa. Così comunque, guardi, Cremaschi, più lei è arrabbiato, arrabbiato nero con quello che si prospetta, che non è chiaro. Comunque, più lei è arrabbiato nero, più io mi sento bene. Siamo qui 800 24 00 24, la Zanzara. David, ci sei? Silvio Berlusconi, 48 milioni di euro. Sì. Amato Berardi, PDL, 3 milioni di euro. Antonio Angelucci, PDL, 1.800.000 euro. Donato Bruno, sempre PDL, 1.751.000 euro. La dichiarazione dei redditi, allora? Giulia Buongiorno, FLI, 1.720.000 euro. Dunque... andiamo ora un attimo al Senato, per cortesia, chiedo scusa per l'attesa. Mario Monti, 1.513.000 euro. Umberto Veronesi, ex PD, 1.484.000 euro. Alfredo Messina, PDL, 1.383.000 euro. Dunque... Salvatore Sciascia, PDL, 1.020.000 euro. Non ho capito, cosa vuoi... Cantoni, PDL, 768.000 euro. Ma cosa vuoi dire con questa cosa? Scusa, spiegami. Nelle prossime ore altri aggiornamenti. Vabbè, vuoi fare venire, vuoi fare incazzare? Piero Longo, già avvocato di Berlusconi, sì. 656.000 euro. E allora? Riccardo Conti, PDL, 569.000 euro. Ma qual è il problema? Ma non c'è problema, ti sembra fazioso quello che sto facendo? I titoli del TG3. Non c'è nessun problema. I titoli del TG3 di Bianca Berlinguer. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Sul lavoro l'accordo non si trova, Palazzo Chigi vertice in salita, Monti oggi verbalizziamo le posizioni di accordo e disaccordo per discuterle in Parlamento. La Camusso, il governo vuole solo i licenziamenti facili, Fornero ammortizzatori del 2017, discriminazioni e reintegro anche nelle piccole aziende. Napolitano, ci aspetta un anno difficile, ma non si può uscire dal sentiero virtuoso che abbiamo imboccato, l'Istat, PIL negativo nel primo trimestre. Fiducia sulle liberalizzazioni, problemi di copertura finanziaria, protestano Lega Italia dei Valori, anche Fini se la prende con l'insensibilità del governo. Responsabilità civile, l'Associazione Nazionale Magistrati chiede la cancellazione della norma e Di Pietro annuncia referendum contro il finanziamento dei partiti. Nuovi terribili particolari sulla strage di Tolosa, il killer aveva al collo una telecamera per filmare la morte delle vittime, dubbi sulla pista neonazista. Inchieste di Milano, volano insulti al Consiglio regionale, Formigoni usa la parola pirla, bagarre in aula, poi si giustifica, Boni, resto al mio posto. Ripeto, le grandi discussioni alla Regione Lombardia, avete sentito anche dai titoli del TG3, cari ascoltatori della Zanzara, siamo anche in diretta su TG24, la parola pirla, già pronunciata da un allenatore di calcio, Mourinho, dell'Inter anni fa, quando venne in Italia. Ce l'abbiamo per caso? No, non è che ce l'abbiamo, no, quell'audio. È reiterata adesso da Formigoni. Ancora. Però qual è il problema di dire pirla a qualcuno? Non capisco il caso pirla. Sentiamo ancora Formigoni. Ma forse l'epiteto pirla deve intendersi come offensivo? Sarà stupito il consigliere, virgola, dimissionario, virgola, Zamponi, nell'apprendere che sulla base di due sentenze del Tribunale di Milano la parola pirla non è una parola che leda l'onore e il prestigio della persona, perché dare del pirla a Milano non è un insulto. Eh beh, così ci ha riferito il presidente della Regione Lombardia. Ma che cosa stai facendo? Mi dicono che stai litigando con qualcuno ancora. Là, che è successo? E continua ancora. Ma chi? Con chi stai litigando? Ma io sono in un vagone che è mezzo libero. Ma come vuoi lavorare? Sto lavorando al telefono. Ma no questo. Cioè c'è mezzo treno libero, mi devi rompere le palle a me. Ma io non ho capito. Ma continua a dirmi che parla voce alta, io sto lavorando. Passamela al telefono questa signora. Ma non lo so, no, non può, è una cosa. Guarda, c'è il signor Cruciani di Radio 24, così vede che sono in diretta. Se ci parli lei. Va bene, o ci parli lei, signora. Ci parli perché... mi passami la signora. Non vuole parlare. Passami la signora. Passami la signora. Non vuole. Ma passami la signora, ti dico. Stai al telefono con un'altra persona. Guarda, le dimostro che sto lavorando, perché sono al telefono con la radio. Parlava al telefono. Ma signora mia, ma io, è lei che non mi ha detto? Parlato mia sorella, mi lascio. È venuta lì a urlarmi due minuti fa, oh, finalmente si sposta nel vagone libero, visto che non c'è nessuno su questo treno. Le battaglie di Parenzo per parlare alla Zanzara. Non lo so. Ma io non lo so. Ma si è spostata, seguila questa signora. Insegui questa signora, insegui questa signora, inseguila. Le do una mano a portare le cose di là. Mi lascio, le do una mano a portare le cose di là. Ma mettili il microfono, non ti devo insegnare tutto, eh? Mettili il microfono, farla parlare. Le do una mano io, signora, se vuole. Le do una mano, è inutile che si arrabbi. Le do una mano a portare le cose di là. È tranquilla adesso? È tranquilla o no? No, va bene, vado via. Lì non c'è il treno, è finito lì il treno, signora, è finito. E vabbè, le battaglie di Parenzo. Mentre mentre Michele Emiliano, sindaco di Bari, sta cercando di giustificarsi davanti al Consiglio Comunale riunito, ho ripescato una sua intervista, un suo colloquio con Guido Ruotolo della Stampa del 17 di marzo, dunque stiamo parlando di sabato scorso. Sentilo perché è veramente istruttivo. Sentiamo. Io voglio bene ad Emiliano, però insomma, bisognerebbe evitare certe dichiarazioni. Allora, dice Emiliano a Ruotolo, vero, 20 anni di berlusconismo hanno reso difficile anche per me tenere fuori l'impresa dalla politica. Ho dato per scontato quello che scontato non è, anzi non deve essere, il conflitto di interesse riguarda anche noi politici, non solo gli imprenditori. E dunque, se ho sbagliato è colpa di 20 anni di berlusconismo. Questo dice Emiliano, vabbè, lasciamo perdere, lasciamo passare queste cose. Di Pietro spiega la corruzione, che secondo lui esiste e che sicuramente c'è, in Di Pietrese. Sentiamo. La corruzione è quando il pubblico ufficiale e il privato ammicchiano, stanno d'accordo, ognuno è contento di quelle che fa. Io ti do 100 lire a te, tu mi dai un appalto a me, io ti do 1000 lire a te, tu mi dai una licenza edilizia a me, insomma ci sta bene a tutte e due, e vissero felici e contenti con qualche piatto di spigoli in piedi. Questo è il reato di corruzione. Prima o poi bisognerà istituire una rubrica che riguarda Pannella, oltre a Bendola, ma che stai a dì? Dunque, Pannella, ma che stai a dì? detto, beh, non fa una grinta il ragionamento, però. Detto con tutto l'affetto possibile, e sentiamo Pannella sulla flagranza di reato della Repubblica. Sentiamo. Interrompere la flagranza della posizione e dell'azione letteralmente, non moralmente, ma letteralmente senza alcun dubbio di carattere criminale dello Stato e della Repubblica rispetto alle giurisdizioni superiori, intanto importando. Hai capito qualcosa? Finalmente qualcosa di chiaro, finalmente. Senti quanto è chiaro questo sul Partito Comunista, che evidentemente ancora esiste, per Pannella, sentiamo. La classe dirigente di estrazione del PCI oggi sta dominando nella realtà italiana con posizioni che sono oggi assolutamente peggiori di quelli dei peggiori momenti di complicità del Partito Comunista e dei comunisti ovunque. A Pannella, ma che stai a dire? Qui altro che Bendola, qui bisognerebbe fare la rubrica Pannella, che stai a dire? Ma perché l'hai tagliato? Se tu lo fai tutto lungo, dura 3 ore, però capisci il concetto? Dura 3 ore, sì, però. E ci vogliono 3 ore di palinsesto. No, ma lo capisci anche con un piccolo dizionario della politica italiana e di pannellese, sì. Perché bisognerebbe fare. Il problema è capire quando lui dice noi, che sarebbe una diga, e voi. Questo è il primo, la prima concezione. Silvana da Venezia, 800 24 00. Silvana da Venezia. Arrabbiati con qualche viaggiatore. No, se n'è andata, ha chiamato il controllore, ha detto che doveva chiamare il controllore. Signora Silvana, buonasera. Sì, buonasera, dottor Cruciani, buonasera, dottor Parenzo. Sì, vada. Senta, io volevo dire una cosa, dottor Parenzo, se sì. È possibile, in forma bonaria. In forma bonaria, sì. Non ho capito, Silvana, sì, venga, bonaria, a Padova, perché... venga a Padova giovedì sera, che siamo lì con il signor Cruciani. Ma guardi, volentieri, ma io non posso. E dopo le spiegherò anche perché. Sì, cioè, non può. Allora, non Silvana, può. Dica. Allora, senta, dottor Parenzo, lei tutte le volte che qualcuno sì. Non è d'accordo, oppure, non so, si esprime anche male, come io in questo momento, sì. Perché siamo un po' emozionati. Anche sì, allora? Non ho capito. Allora, praticamente lei dice, ma lei è da autoambulanza, è un letto... Vabbè, insomma sì, allora... Ah no, allora io le dico questo, dottor Cruciani, e anche al dottor Parenzo, che quando le persone hanno questo disagio fisico, e io faccio parte di questa categoria. E chi ce l'ha il disagio fisico? Scusi. È un disagio psichico. Ma chi c'ha il disagio? Come chi c'ha il disagio psichico? Le persone che praticamente. Ma non è mica detto che abbiano un disagio psichico, non è mica detto. È un gioco, perché dice delle cose deliranti, è un gioco. Perché sono anche emozionata, però questo sì. Però scusi, finisca un attimo, plachi un attimo l'emozione e andiamo a Marco da Udine. Silvana, plachi l'emozione, perché altrimenti non ne usciamo. Marco da Udine. Sì, buonasera. Sì, buonasera, vada. Dottor Cruciani e sì. Dottor Scirifosi Parenzo. Volevo dirle due cose. Vabbè, sì. Uno, che spero di vedere la faccia della Camusso incazzata come dice lei, dottor Parenzo e dottor Cruciani, sì. Perché non se ne può più, veramente. Poi? E poi stasera, prima di andare a letto, mi accendo il cero alla foto della Fornero. Pure lei? Perché sì, anch'io sono però aspetti, aficionados della Fornero. Però aspetti un pur attimo. Pur essendo quarantenne, sì. E me la sono presa di dietro con la pensione. Beh, aspetti. Però adesso, sono contentissimo che abbiamo questa gente che può parlare tranquillamente. Va bene. E dire le cose come stanno. Va bene. Siamo qui, cari ascoltatori, 800 24 00 24, la Zanzara. Parenzo, hai risolto i tuoi problemi? Onorevole Mauro Paniz, avvocato. Ancora BDL, con questa lista. Ma chi se ne frega, euro. Lo sappiamo, è la lista. Onorevole avvocato Nicolò Ghedini, sì. Avvocato del Premier. Ma questo cosa vuoi dire? Che ci sono delle persone ricche in Parlamento? Giuseppe che Angeli, vabbè. PDL 969.000 euro. Enrico La Loggia, PDL 750.000 euro. E allora non ho capito. Altri aggiornamenti nel corso della serata. Intanto segnaliamo che l'onorevole Barbareschi, deputato di FLI, ha acquistato una appartamento a New York per 1.100.000. Ma io non ho capito che cosa vuoi fare, vuoi fare incazzare la gente con questa cosa qua? Vuoi attizzare? Vogliamo intanto segnalarvi altresì che il finiano Giuseppe Consolo ha acquistato un mega yacht da 25 metri modello San Lorenzo. Altri aggiornamenti nel corso del Bene, grazie no, a Parenzo. Non sono io, no, ma non è una. E chi è? Un megafono che viene da fuori, vabbè. Non ho idea. Siamo qui, tra poco ti presento un ospite che mi ha raggiunto. Intanto Gianpietro da Bologna, 800 24 00 24. Te lo presento subito, perché è una persona che conosci bene. Mi sono messo anche una camicia adatta all'uopo, allo scopo questa sera. Colore della camicia, dici tu? Il colore, beh sì, certo, naturalmente. Perché siamo in radio, io sono in viaggio, quindi non posso vederti. No, è vero, il colore della camicia, fra poco saprete, è un colore 24. Adatto alla persona che abbiamo al nostro ospite. Intanto... Allora, però dirti una cosa però. Sì, prima. dimmi. Questo Digicom 24 è fatto proprio bene. Sì, chi se ne frega. Gianpietro da Bologna, buonasera. Gianpietro, dica. Buonasera. Sì. Niente, io sono delegato FIOM a Bologna, sì, di un'azienda che poi è una multinazionale, sì, quindi... Su questo abbiamo una certa dimensione, sui 400 dipendenti. Vabbè, allora? Oggi abbiamo fatto 2 ore di sciopero, sì, contro la riforma del mercato del lavoro. E vabbè, grazie di avercelo comunicato. Dunque. È un governo padronale, abbiamo, sì, bloccato governo padronale, anche la certo. Avete bloccato, ecco, la via Emilia, male, molto male, la gente sarà incazzata con voi. E questo è un governo padronale che vuole far pagare la crisi del capitalismo ai lavoratori. Ha letto il suo comunicato sindacale? Non è un comunicato. Ha fatto il suo comizio, discorsi unilaterali, parlate di ladri mafiosi in Parlamento. No, veramente io non parlo di ladri mafiosi. Euro perché è un il Parlamento è un governo di mafiosi, sì, mafiosi ma lei, e ladri. Lei è anche un delegato FIOM. Lei il futuro di milioni di persone. Lei è un delegato FIOM. Questi non hanno nessun diritto morale. Sì. La banca, scusi, si fermi, non stiamo in fabbrica, non è una manifestazione Italia, di fabbrica, Gianpietro, vabbè, non si ferma. I mercati mafiosi che hanno portato ma alla non crisi è un mondiale, ma non è un comitato di fabbrica, i lavoratori questa bene, crisi. Non è un comitato questo, di fabbrica, non siamo col megafono per strada. Fate voi con le vostre stronzate, magari raccontate sul... Da passando a un treno all'altro. Gianpietro, lei è pure un delegato FIOM, si dovrebbe vergognare la FIOM di avere uno come lei, si dovrebbe vergognare. Come quando dalla Banca Centrale Europea con gli stati, sì, non è il comizio, ma non siamo per strada, ma non siamo davanti alla fabbrica. Dobbiamo salvare i debiti privati, non si ferma, banche, pazzo, all'1%. Cioè. Ai politici viene prestato all'1,5%, sì, a chi va a prendere il mutuo invece è al, sì, 4%. Questi sono tutti dei mafiosi, sì, legalizzati. Gianpietro, anche la Fondo Monetario, la banca, sì, da solo mafiosi. La FIOM dovrebbe prenderla a calci nel sedere. Essere espropriati. Gianpietro, le banche, si fermi. Essere nazionalizzate. Si fermi, la FIOM. Questa è la realtà. Va bene, questa è la realtà. L'articolo 18. Sì, questo è questo. Gianpietro, si fermi si fermi, se no la devo bloccare, se no la devo cassare. Si fermi, se lei che non, sì, mi fa parlare. Io non la faccio parlare pure. No, non fa parlare. Gianpietro, ma non la smetta perché sta facendo un comizio. La FIOM, se fosse un'organizzazione, si fermi un attimo, si fermi tutte le sere, sì, beh, io sono pagato anche per quello, se non per fare comizio, per condurre una trasmissione, se non le dispiace, la FIOM, sì, la FIOM, se fosse un sindacato serio, dovrebbe prenderla a calci nel sedere e cacciarla dal sindacato, va bene? Questa è la realtà, dopo che lei ha detto mafiosi, ladri in Parlamento, ha detto un sacco di stupidaggini. La ringrazio, torni a manifestare per strada, basta che non rompa le scatole alla gente che va al lavoro in macchina e non vuole essere, come dire, fermata da uno che da uno squinternato come lei. La ringrazio. Abbiamo qui Romano La Russa. Beh. Buonasera. Buonasera. Come andiamo? Ciao David. Buongiorno. Ha visto La Russa che camicia ho? Un abbigliamento squisito. Squisito, perfetto. Ecco, direi. Qua, no. Subito. La camicia subito. Nera, per comunicarlo ai nostri amici alla radio. La camicia. No, ma lo dicevo perché è in tono con tutto il resto. Con che cosa? Con la giacca, i pantaloni, sta benissimo, a prescindere. Forse anche se fosse stata azzurra andava bene. Certo, così nero. Così è, diciamo, come dire, è più genuino. Da un tocco di classe, direi. E di genuinità. Di genuinità. Senta, ma lei ha camicie nere nel suo guardaroba? No. No. No, l'avevo da ragazzo. Da ragazzo, Nel guardaroba, no. Nella bacheca, sì, però. Ah, nella bacheca. Sì, sì. Come cimeli ormai, insomma, certo, come cosa certo. Del passato. Esatto. Quanti cimeli ha lei ha del ventennio? È un collezionista di cimeli del ventennio? È abbastanza, abbastanza. Sì, cioè, sì, quanti, sì. Per esempio, quanti busti del duce ha? Beh, qualcuno, non tantissimi. Lo sai che ne ho anch'io, ne ho anch'io. Due o tre, credo che in quasi tutte le famiglie d'Italia, un po' per curiosità, beh, un po' perché era del nonno, un po' perché era dello zio. Proprio di no. Questo, caro La Russa. Persino David aveva un nonno con. Ma una volta me l'ha confessato David, avevo un nonno col busto. Prezzo, nonno col busto. Ho detto che mio nonno, già a quest'ora di Cremona, e ora vivente in Corsica, sì. Quindi è vivo, sì. Era ai noi. Fascista, purtroppo. Allora l'hai confessato. La notizia è questa: non che La Russa, come già sappiamo, perché è venuto già una volta da noi e ricordiamo, le sue gesta. Mio nonno, ma che c'entra? La notizia è questa: Parenzo aveva un nonno fascista. Questa è discendente di un questore, quindi di un'autorità fascista. Vabbè, diciamo la realtà. Questa è... Non mi mette nel mezzo, perché io sono antifascista fin nel midollo. Ma questo non è del nonno, stiamo parlando di te. Antifascista nel midollo. Ma noi stiamo parlando di te, Sono antifascista. Comunque adesso non è che abbiamo invitato qui La Russa per sapere i cimeli. No, però oltre ai busti, che cosa c'è? Che cosa? I memorabilia. Si è indagato per finanziamenti illeciti, adesso ne parliamo. Ne parliamo. Molti distintivi del partito, dei giovani Balilla, foto d'epoca, ma non soltanto, anche cose del comunismo, per dire, sono del periodo staliniano. Roba anche che mi piace, di pregio, anche roba che potrebbe avere un certo mercato. Sai che c'è un mercato. Dal punto di vista di valore economico, non credo che valga molto, insomma. Cioè, c'è qualcosa di prezioso, che ne so, una carta, un cimelio particolare del PNF da qualche parte, un bel fascio. No. Ignazio ha una copia di un mandato di cattura di Benito Mussolini quando ancora socialista era perseguitato dalla polizia monarchica. E questo vale? Credo di sì, credo che sia autentico. Adesso non so dove l'abbia o chi gliel'abbia regalato, eccetera. Ma questo certamente ha un valore storico. Si vanta anche Sua Eccellenza il Cavaliere, essendo poi diventato presidente del Consiglio. Come lo chiama? Scusi, Sua Eccellenza il Cavaliere. Non io, si chiamava sì, così però Sua Eccellenza il Cavaliere. Il signor Mussolini. O se volete il signor Benito Mussolini, era Sua Eccellenza il Cavaliere Benito Mussolini. È numero uno. Io lo trovo il numero uno perché in realtà nei confronti del passato ha una tale libertà di pensiero. Io se lo dico sinceramente che è assolutamente encomiabile. Anch'io ce l'ho in realtà. Guardo queste cose con un certo distacco, forse lui no, naturalmente, anche con passione, però stiamo parlando di storia. Sì, insomma, capito. Anche questa. È una storia tragica, drammatica. Certo, certo, per certi versi. Adesso però scusi, facciamo la replica volentieri. Parliamo dei Sansepolcristi, non lo so, del sindacalismo nazionale di Filippo Corridoni, di cosa vuoi parlare? Però scusi un attimo, La Russa. Ma che Sansepolcristi? Sansepolcristi sono quelli della Repubblica Sociale Italiana, una vergogna. No. Ehi, non fare errori storici, tu che sei uomo di cultura, non confondere. Non parliamo di storia, però voglio dire che sia stata una dittatura spietata, non c'è dubbio. Ma il vecchio Sansepolcro era 20 anni prima. No, non mi fate la lezione. Ma era poi alla base della Repubblica Sociale Italiana. Che sia stata una dittatura spietata non c'è certamente dubbio. Era la base della fondazione dei fasci. No, lasciamo perdere. Nel 1919, quale RSI? La prima volete smettere di parlare di queste cose? Oppure ho detto che fu ripresa dopo e diventò il manifesto. Parenzo, era basta. La conclusione di un percorso. David, basta. Allora, è stata una dittatura spietata, sì o no? Anche. Ma come insomma, anche? Più cose positive o negative? Cose positive o negative, basta. Ma non è un problema di percentuali, dovrei dire. Il bilancio finale è metà positivo. E metà. Il bilancio dal punto di vista sociale, per esempio, sì, dal punto di vista generale. Sì. Se non ci fosse stata la guerra, ragazzi, sarebbe però stato. Il bilancio finale è positivo. Santo subito, Se non ci fosse stata la guerra e il 38, le leggi infami santo del 38, subito. Era santo subito. Ma lo dico io, diceva l'Italia intera. Lo diceva l'Italia intera. Allora, non c'è un po' di ansia al Consiglio regionale a chi tocca oggi? Al Consiglio regionale c'è un po' di ansia a chi tocca oggi? No, non è ansia, passa un po' per fortuna come battuta, ma non soltanto in Consiglio regionale, insomma. C'è indubbiamente un clima non piacevole, insomma. Il fatto che probabilmente non c'è più un obiettivo che era da 15 anni, che era un obiettivo a Roma, evidentemente, probabilmente qualcuno... Come obiettivo a Roma, non ho capito. L'obiettivo era Roma, era il Presidente del Consiglio. Qui ah, sì. Formigoni sta dicendo lei. Esatto, l'obiettivo prima era Romano, quindi il governo nazionale. Sì. Non c'è dubbio che quanto sta avvenendo nelle ultime settimane lascia un po' perplessi e lascia un po' pensare che evidentemente, non essendoci più da colpire Berlusconi a Roma, adesso il baluardo centrodestra in Italia è la regione Lombardia. No, dai. E quindi vi è un'attenzione, ma non dico che sia sbagliata e che non ci debba essere. Da parte della magistratura, dice lei. Certamente. Cioè, dopo Berlusconi, adesso non ci sono più Berlusconi, tocca alla giunta. Non vuol dire, non lo so se ha torto o ragione, se alla fine. No, però lei ha quest'idea. Avrà ragione o torto la magistratura. È certo che lascia un po' pensare che per 15 anni quasi mai nulla è successo, da quando non c'è più Berlusconi, ormai la massima autorità di centrodestra è la regione Lombardia. E dunque i magistrati si concentrano, puntano il loro si fuoco. Si concentrano, non dico che lo facciano adesso assolutamente in malafede, si concentrano però sì. Cioè si concentrano sulle inchiostre, anziché concentrarsi, vanno a spulciare, a fare. Anche se devo dire obiettivamente nelle ultime giornate, Russia, nelle ultime settimane si sono concentrati in Emilia Romagna con Errani. Scusa un attimo, Davide, in Emilia Romagna con Errani, ma non è stato sollevato nessun polverone. In Puglia con Emiliano, in Puglia con Vendola, c'è un polverone su Emiliano, devo dire però stranamente, insomma, l'accanimento soprattutto dei media e soprattutto qui in Lombardia, insomma. Allora, Formigoni fa troppo gola a una parte politica. E quale? Quella di sinistra, naturalmente, certo. Bene, siamo qui sempre in diretta a Radio 24 e Solo 24 Ore, anche su TGcom 24, 800 24 00 24, con uno dei protagonisti dell'attualità di questi giorni, devo dire anche a sorpresa, perché bisogna riconoscere che tutto si può dire tranne che Romano La Russa sia stato coinvolto nel passato da inchieste che riguardano la corruzione, pur essendo insomma la Lombardia è stata al centro più volte di inchieste della magistratura, eccetera eccetera. Allora, qual è questa storia che riguarda La Russa? Devo dire, fila. È vero, David, è vero. Cioè lei era lì a dire certo. Qual era lo striscione? Nel 90, nei primi anni del 90, nel periodo di Mani Pulite, credo che gran parte anche del centrodestra era favorevole e speravamo, era l'auspicio che vi fosse una nuova primavera di libertà, e che purtroppo il 92 Mani Pulite si è poi fermata solo ad una parte politica, non ha indagato a 360 gradi come avremmo voluto, ma in quel momento non era un errore. Riandrei ancora davanti a Palazzo di Giustizia a fare le manifestazioni come facevo con la maglietta di Pietro Sindaco. Non lo rinnego. Non lo rinnego, certo. Ma ci mancherebbe. Ma di Pietro Sindaco, non lo rinnego. No, la destra in quel momento, ma perché ritenevamo giusto, perché si viveva in un periodo politico, storico, particolare, dove indubbiamente una certa pulizia, ma credo che il 90% degli italiani in quel momento lei sa sempre come la pensa il 90% degli italiani. No, ho detto credo, ne sono convinto però. A lei le piacciono queste percentuali vagamente bulgari? sì. Senta, allora, la questione, sono i santini elettorali. Ma ha già ammesso La Russa? No, cosa ha ammesso? Che non ha registrato? Si contesta è la violazione della legge sul finanziamento pubblico. Lei non ha registrato alcuni volantini che sono stati... Tutto nasce così, alcuni amici. Sì. Mi raccomando, tutto quello che dice poi viene... Certo, ma l'ho già detto e ripetuto a tante televisioni, ai giornali. I giudici non ho avuto ancora la fortuna di conoscerli, perché un'indagine che è partita un anno e mezzo, due anni fa... Io non ho mai saputo assolutamente nulla, nessuno mi ha mai interpellato. E devi ringraziare Ghedini. Ho scoperto ieri a mezzogiorno di essere indagato quando sono venuti a consegnarmi il documento di chiusura delle indagini. Cioè, quando hanno chiuso tutto, hanno deciso di indagare. Per due anni nessuno, per cui non so ancora, non ho visto un documento. Sì. Non ho mai parlato con nessuno, dovrò verificare queste accuse che mi stanno facendo, ma da quello che si evince, dalle accuse, ma la semplice descrizione è che non avrei, io ritengo può darsi che sia capitato, lo verificherò insieme al committente, registrato, siamo omesso di rendicontare nel mio rendiconto alla fine della campagna elettorale, peraltro stiamo parlando di 4 a 5 mila euro, questo si evince per due campagne elettorali, una alle regionali del 2010, una alle provinciali dell'anno scorso nella provincia di Vercelli, dove ero candidato come candidatura di servizio nell'ultimo collegio. Per le regionali devo rendicontare, sì, ho l'obbligo, per le provinciali non devo rendicontare nulla, quindi è già... Cioè, scusi, tecnicamente cosa è successo? Che un'azienda... Tecnicamente non un'azienda, per... il mio amico che è... Guarda, un suo amico, però che è stato consigliere, che è stato nell'UDC, no, ma è uscito sul giornale. È stato dirigente prima dell'UDC, passato con noi già nel 2009. Ha stampato per lei, esatto, dei volantini. Ha deciso con dei suoi amici, tutti di area politica vicini a lui, 2 anni fa in campagna elettorale, ha detto, siccome noi la nostra provincia... la vecchia Democrazia Cristiana, l'UDC eccetera, dobbiamo far sapere che il nostro gruppo ti vuole appoggiare, hanno stampato un manifesto di loro senza dirlo volontà. A lei, ma me l'avranno anche detto, ma in campagna elettorale chi se ne intende di campagna elettorale sa che arriva, stiamo facendo un manifesto, vabbè fallo, gliel'avrò anche detto, non lo so, devo verificare perché non ho parlato con lui, ma sarà andata così. E dunque lei non l'ha registrato? Il problema non è se me l'ha detto o non l'ha detto, io credo che me l'abbia detto. E hanno fatto questo manifesto dove c'è Filippo, Giuseppe, Maurizio. Hanno speso dei soldi questi qua? Ah, si sono fatti il loro manifesto. L'hanno, hanno fatturato a lei? L'hanno, no, è questo il problema. L'hanno poi attaccato. Stiamo parlando di qualche centinaio di manifesti. Cioè vabbè, allora? 4.000 euro in 2 campagne elettorali. Sì. E dopodiché un lavoro fatturato dalla tipografia al signor Ruffino, che è questo imprenditore, bravissima persona, mio carissimo amico, lui mi ha detto lo sto facendo io, bene, ma gli ho detto fallo, al momento in cui lo fa come azienda deve avere l'autorizzazione del consiglio d'amministrazione per poter fare un finanziamento pubblico, si dà il caso che lui è amministratore unico, l'azienda è sua, per cui avrebbe dovuto chiedere a se stesso. Era un finanziamento privato a lei, diciamo, esatto, che lei non avrebbe registrato. Che io non ho, chi doveva registrare? Lei? Beh, io sì, il mio committè, ma lui avrebbe dovuto trasferirmi. E perché non è stata fatta questa registrazione? Fatto. Lui si è evidentemente ha pensato, non lo so perché non gli ho parlato. Per risparmiare. No, non risparmia niente perché l'ha fatturato all'azienda, ha pagato lì, ha pagato le tasse, non ha semplicemente scritto che era un finanziamento pubblico. Questo è il reato. Che è il reato. Dunque è lei reato, ammette perché deve dichiarare. Dunque lei, la Russia, io per un errore tecnico burocratico, perché di questo si tratta, cioè non ho registrato per una mancanza, dimenticanza, comunque per un errore tecnico burocratico, non ho scritto in 2 campagne elettorali di 2 anni diversi per un totale di 4.000 euro questo importo. Dunque lei sostanzialmente sta ammettendo che ha commesso un illecito sostanzialmente. Sì, devo ancora verificarlo perché non ho alcun elemento, perché fino a settimana prossima i giudici ci hanno detto che non hanno ancora disponibili le carte, quindi non ho letto niente, non so bene nemmeno a cosa si riferisca. Sembrerebbe più da indiscrezione. E questa secondo lei è una... il fatto no, che è i giudici un fatto, per l'amor di Dio, che può essere grave. Sì, però siccome i giudici si sono concentrati su questo, lei lo ritiene una cosa, un particolare accanimento perché si chiama La Russa? Mi dica la verità. Ma considerato che l'indagine va avanti da 2 anni, nessuno mi ha detto niente, nessuno mi ha mai comunicato niente, appaio di punto in bianco così per una cosa. Però si fa così, per l'amor di Dio. No, beh, l'avviso di garanzia te lo danno non quando sono concluse le indagini. Vabbè, insomma, ma possono o non possono. Lei pensa che il nome... No, credo che indubbiamente il mio nome, o meglio il mio cognome, in questo momento, tornando al discorso Regione Lombardia, abbia pesato su questa iniziativa. Possa aver pesato, io spero proprio di no. E quindi, ma io chiarirò la mia situazione. Quando mi chiameranno e mi diranno di che cosa sono realmente imputato, per il momento ho solo un avviso di garanzia, comunque non sono ancora imputato, lo chiarirò. Si tratta di, per un errore, ripeto, tecnico, non aver registrato un finanziamento 2.000 pubblico per una campagna un finanziamento elettorale privato, e 2.000 per dei manifesti che si sono stampati, non glieli ho mai chiesti perché l'hanno fatta con le loro facce. Quello è indifferente, diciamo, per la magistratura. È indifferente se ci fosse stata una mia richiesta specifica, cosa sarebbe più grave secondo me. Sì, quando gliel'hanno chiesto ha detto sì, fateli, stampateli. Sì, come in campagna elettorale incontri 1.000 persone, ti dicono stiamo facendo il volantino. Vabbè, non è che sono 1.000 persone, queste sono le persone che lei conosce molto bene. Magari dico, facciamo il volantino, che prepariamo un comizio. I volantini come questi, cari, non erano proprio questi. No, però non insomma, era sono... questo era il mio manifesto, era un manifesto. Ci sentiamo dopo la pubblicità. 800 24 00 24. Eccoci qui, 800 24 00 24. Siamo con Romano La Russa, fratello di Ignazio La Russa, consigliere, anzi no, assessore alla Regione Lombardia, dove oggi è successa una cosa incredibile, signor La Russa. Cosa è accaduto? Che il presidente, il signor Formigoni, ha dato del pirla a un... la cosa ha avuto eco in tutti i telegiornali italiani, addirittura come titolo. TG3, prima abbiamo sentito, non solo TG3, il Pirla dato da Formigoni a un consigliere dell'Italia dei Valori, capogruppo, credo dimissionario, o sbaglio? Sì, ma non dal punto di vista amministrativo dei lavori della Regione Lombardia. Questo, però, al di là di questo, attiene la mia campagna elettorale, certo. Una omissione, un errore tecnico che ho commesso. Poco tanto che sia, per ognuno lo giudichi come vuole, no, ma non né io né chi ha avuto prima di me altri avvisi di garanzia o arresti. Cioè, Formigoni deve rimanere. Non la deve... giunta regionale non è stata minimamente scalfita, perché deve dimettersi? Insomma, cioè, io risponderò dei miei errori personali se dimostreranno che ho sbagliato. Lo valuteremo, lo vedremo quando avrò. Cioè... Lei pensa che ci sia un accanimento sulla Regione Lombardia oppure un concentrato di Marioli in generale, non sulla... Non facciamo di tutto un concentrato di un fascio, così facciamo contento Parenzo. Non facciamo... E anche lei un po' sì. Ma io non sono contento per nulla, comunque. Dico, intanto aspettiamo la fine delle indagini, perché finché non c'è una condanna, ma quello certo, però... che si abbia tutti i diritti, che poi tutto sia lì una cozzaglia di delinquenti. Questo non lo lascio dire a nessuno, perché c'è, credo, la quasi totalità, perlomeno, non dico la totalità, ma posso mettere la mano sul fuoco, sì, la quasi totalità di destra e di sinistra che lavorano seriamente, si impegnano e si sudano il pane e la pagnotta guadagnata. Ma sembra di stare nel libro di Agatha Christie, 10 piccoli indiani. Cioè? Cioè, 10 piccoli indiani, quelle 10 persone invitate a pranzo, poi ne muore una ogni volta. Qui non auguriamo la morte a nessuno, neanche la morte politica, ma siamo arrivati a 10 persone indagate. No, scusa Parenzo, però diciamo perché sono indagati. Ma qualcuno con reati gravissimi, non è il caso. Qualcuno, di due, forse tre, ma non è ancora accertato nulla. Sono reati gravissimi. Ma ammesso e non concesso, te la do. Sono reati gravissimi quelli, dillo, il tuo no. Certo. Il tuo può essere no, una sentenza, perché 5.000 euro. Ti lascio finire perché questo è importante, certo. Però di che sono quelle persone indagate hanno due reati gravissimi, dillo, ammetti. Sì, sì, no, ammetto, le accuse per alcuni sono gravissime, però sono ancora accuse. Però quando parli di 10 vorrei ricordarti che oltre il mio caso, che per certi versi qualcuno può anche dire che è grave, anche se di un'entità minima e per un errore tecnico o errore burocratico. Però nei 10 stai mettendo, difendo per una volta tanto gli amici leghisti, Belotti... è accusato non so di che cosa abbia urlato allo stadio le cose gravi per un reato. Beh, le cose gravi urlare allo stadio non è bellissimo per un consigliere regionale, ma forse non era nemmeno consigliere regionale degli ultra, sì, ma voglio dire, non è che puoi far cadere una giunta perché Belotti è accusato di aver urlato, che ne so, bu a un avversario. Boni è grave, sicuramente Boni è grave, ma oggi in aula però ha dichiarato di ritenersi sicuro di essere completamente estraneo a questa vicenda. Fin tanto che non ci sono le prove, io non posso credere alla parola di questa Davide giunta Boni. Deve rimanere fino alla fine del suo mandato. Questa giunta deve andare a casa se si dimostrasse che nell'operato della giunta e quindi nel lavoro della giunta regionale vi dovesse essere qualcosa di illecito e di illegale. Questo oggi non avviene e non è avvenuto per niente. Senta, Russa, perché stavo dicendo, però dei 10, visto che ha detto alcuni, però c'è Belotti, c'è la Rizzi che è per i problemi suoi lì a Brescia, c'è Franco Nicoli Cristiani, sì, se vuoi c'è Nicoli Cristiani, te li dico io i nomi, c'è Nicoli Cristiani, c'è Ponzoni, sono i casi più eclatanti, eclatanti e più particolarmente gravi, ma è tutto da dimostrare ancora, ci sarà un processo. Lei pensa che si possa sai benissimo che non sono particolarmente garantista, no? Ho detto prima andavo in giro con la maglietta di Pietro Sindaco, però tra l'essere ipergarantista e sempre comunque garantista ad essere il forcaiolo non ci sto nemmeno, perché non è la prima volta che come parte insomma subisco un certo accanimento della magistratura. Ahimè, non sono più giovane, per cui c'ero negli anni 70 quando con altre motivazioni vi era un accanimento contro una parte politica. Quelli di Romano, scusa, dilla tutta, quando negli anni 70 quelli per te erano reati nobili, perché erano reati politici, sicuramente io uno per te era nobile. Di denunce per adunata sediziosa o per manifestazione non autorizzata ne ho avuta decine. Lei è orgoglioso. Ho avuto anche di peggio, ma comunque. E che ha avuto di peggio? Diglielo. Posso dire? dirlo, Davide? Sì, sì, diglielo, certo, tu, dai, certo, che è più bello. Diglielo, diglielo tu. Diglielo, no, tu. No, che udo, che udo. No, io no, per adunata sedizione sono stato anche arrestato, ho fatto San Vittore per due mesi con tanti altri miei amici, ma lottavamo, ma solo perché eravamo in piazza con una bandiera tricolore. Quando, lo voglio ricordare, marciare o sfilare con una bandiera tricolore venivi subito immediatamente additato come pericoloso, pericolosissimo fascista, quando la sinistra, che oggi, ma e questo sono naturalmente contentissimo, ha riscoperto l'inno di Mamela, ha riscoperto la bandiera, ma allora le bruciavano le bandiere tricolori perché erano il simbolo dei fascisti. Senta, beh, ma... per una bandiera tricolore, perché sfilavo difendendo la mia patria del tricolore, sono anche finito in galera, ma ne sono fiero di questo. È fiero delle, certo, della adunata sediziosa, eccetera, eccetera. No, la adunata sediziosa era l'accusa. Beh, in l'accusa, realtà non quello. Sono mai stato condannato, anche per quello, nonostante non sono mai stato condannato neanche per manifestazione non autorizzata. Senta, ma la signora Minetti, che fa in questi giorni in Consiglio? Sta bene, grazie, gliela saluto. In tutto questo bailam del Consiglio regionale, della regione, eccetera, come si comporta? Ride sempre, ride continuamente. Non lo so, si comporta, credo, come tutti gli altri, insomma. Guarda, sta a guardare. È persona, almeno in aula, assolutamente seria. Seria e attenta, non, sinceramente, ma... ho io altro da pensare che guardare, naturalmente. Beh, perché no? Se sorrida, ma... no, no, la guardo anche volentieri qualche volta, per l'amor di Dio. sono ancora la penso ancora in un certo modo riguardo a determinate cose, per cui se vedesse... è anche piacevole. Se dovessi guardare David, non lo guarderei. Ah, beh, su questo, su questo se dovesse guardare due persone che si baciano, due uomini che si baciano. Ma non mi disturbano più di tanto, ma un pochino sì, dipende dove, come, se... Per strada. Nah, per strada un po' fastidio, però sono affari loro, insomma. Perché gli danno un po' fastidio? Ma può dare fastidio anche se esagerano un uomo e una donna. Però due uomini, l'abbiamo due uomini detto che tante volte, se sono i due ragazzini ti fa... due uomini, io sono fatto all'antica, ragazzi, non so che dirvi, però non c'è niente da fare, però lo facciano a casa loro e possono fare quello che vogliono, ma lo facciano anche per strada, anche lì c'è modo e modo di farlo, voglio dire. Se lo fai proprio per estermare, far vedere che loro sono superiori agli altri, perché non superiori? È perché è così, perché qualcuno lo fa convinto di essere loro e solo loro dalla parte della ragione. E noi poveri eterosessuali siamo da una razza inferiore. Non è così, assolutamente. La famosa lobby gay esiste, secondo lei? Altro che. No, vabbè. Altro che. E come? No. Da chi è rappresentato? E per esempio, chi c'è? Uno dei capi della lobby? Non lo so, non li frequento. Per cui... In che senso esiste la lobby, secondo lei? Ma è giusto che sia così, voglio dire. È una specie, se vuole, una specie di massoneria o di setta, insomma. Beh, insomma, la massoneria, la setta, addirittura. Faccio contento un attimo ancora. Parezzo, sì. Negli anni 70, se un camerata era in difficoltà, quando era camerata, prima di tutto era camerata, lo si aiutava, poi gli si chiedeva perché era in difficoltà, e lo stesso avviene per la lobby del... quando, se faccio parte di una certa componente, di una certa si comunità, tutti tra di loro, ed è giusto, io questo lo ritengo giusto, è giusto aiutarsi a vicenda. Certo, non deve questo poi... travalicare e arrivare alla sopraffazione nei confronti di chi gay non è, perché... oggi c'è questa tendenza da parte di qualcuno, non di tutti. Io ho qualche amico travalicare, ad esagerare. Per esempio, un esempio di esagerazione qual è? È quello del voler a tutti i costi in piazza, per le strade, manifestare e far vedere, insomma, che loro possono fare qualunque cosa. Questo non mi piace. Poi ognuno giustamente la può pensare come crede, può avere anche i gusti sessuali. Ma aprirei una polemica che non voglio aprire. Su per quanto mi riguarda, nella maggior parte dei casi sono malati. Ed è una malattia da cui si può uscire e possono essere curati. Ma in che modo? Dopo un'altra serata la facciamo. No, molto però, scusi, volentieri perché facciamo malattia? Perché malattia, dice lei? Perché chi un omosessuale, c'è il depravato, certamente. Poi c'è anche chi è affetto da questa malattia, ma non è una cosa che sto dicendo io, che lo sapete benissimo, per la prima volta o è una novità assoluta. So che questa è una tesi molto molto contestata, ma io non lo so se è quella giusta, però non però mi va crede, di metterla subito da parte e di non considerarla. E si può curare, secondo lei? Sì, c'era anche la famosa canzone, no? È guarito, com'era? Era di Povia, il mitico Povia. Esatto, il mitico Povia. Ripartiamo da quello. Pubblicità. Ripartiamo da Povia. Povia, voglio Povia, Luca era gay, e adesso sta con lei. Luca parla con il cuore in mano. Ecco Povia, Parenzo, ecco Povia. Nostro grande amico Povia. E adesso sta con lei. Luca che era gay, ma adesso sta con lei. Per cui si può guarire. Si può guarire, si secondo può guarire, lei. Sì. In che modo si può guarire? E beh, bisogna essere fortunati come il personaggio di Povia, insomma, avere qualcuno a fianco e si può guarire. Io non sono né psicologo in questo caso. Però con i medici, secondo lei? Beh, anche con l'aiuto dei medici, ma più che medici, sì, naturalmente è un fatto psicologico. Quindi i medici intendo con i psicologi. Certo, psicologi senz'altro. E poi magari incontrare una donna. Incontrare la persona giusta, avere una famiglia che ti segua senza penalizzarti, insomma, per, cioè, se lei avesse scoperto di avere un figlio o una figlia omosessuale, cosa avrebbe fatto? Non mi sarei di certo suicidato. No. Dipende, però l'ho detto prima, dipende che tipo di atteggiamento hanno queste persone. Se non sono troppo oppressive, non sono troppo esagerate, nel senso. No, ma lei scopre suo figlio o sua figlia omosessuale, cosa, la porta dal medico? Beh, può darsi, non lo so, non mi sono trovato in questa situazione. Meno male, dice lei, che non si è trovato. Sì, per fortuna, sì, certamente, non è, cioè, per fortuna non è una gioia, credo, per nessun genitore. Poi uno ne prende atto. Lei quanti figli ha? Tanti? Ne ho cinque. Cinque. Per fortuna non ho mai avuto un figlio. Per il momento ho anche quattro nipoti, spero di non averne neanche in futuro, naturalmente. Di ma quattro... non sarebbe una tragedia, voglio dire. Però è meglio non averlo. È meglio non averlo. Ma insomma, noi siamo nati per procreare. Allora? Per procreare. Oh, bisogna che ci sia una mamma femmina, sì, e un papà maschio. Vabbè, questo o mamma. E ho, cioè, mamma e papà. Mamma e papà. Questo, ma da che mondo è mondo? È esistito. Ma basta. Però voglio dire, si può ammettere anche che ci siano due uomini e due donne. L'ho che appena ammesso, ma l'ho ammesso, non c'è niente di male. Cioè, non è che si propaga, pure. Non è un morbo, capito, che si propaga, non e distrugge l'umanità. Non mi o va. Sì, o il pericolo, no, assolutamente. È anche quello. Beh, a lungo andare, chi lo sa. Certo, se nessuno va più tra donne e uomini, finisce l'umanità. Questo si esaurisce. Però, cioè, non è un pericolo imminente, non mi pare un pericolo imminente. Vabbè, ma io sono un politico, devo essere lungimirante, quindi penso deve anche guardare, futuro, deve, cioè, guardare al futuro, deve guardare al futuro. Ma chiunque, non sono un politico. Ma dice delle cose, ma non è... gravissime con un, sì, sorriso. Lo so, ma quando mai io ho detto, guarda, delle cose? Guarda, si può guarire, l'unica roba della anche dal fascismo, si può guarire anche dal fascismo. Ma esatto, infatti, sono guarito era io. Fascio, adesso è democratico. Romano era fascio e adesso è democratico. No, veramente è sempre fascista rimasto, Non è vero, sono un ammiratore, ho sempre detto, di una parte del ventennio. Io sono nato 10 anni dopo la fine, il crollo del fascismo. Come potrei mai essere fascista? Sono nato in piena democrazia, ho accettato sin dal primo giorno che sono nato la battaglia democratica, sì, e ne sono fiero, e continuo a essere democratico. Se cantavi in piazza il 25 aprile è nata una puttana, l'hanno chiamata democrazia cristiana, no, l'hanno chiamata democrazia cristiana. Com'era il coro? Il 25 aprile. Oppure l'abbiamo fatta grossa, vabbè, comunque. E com'è? Vai avanti. Com'è? Abbiamo fatto una certa pulizia con la bandiera rossa. Cominciamo, fagliela cantare tutta. Non lo so, qual era? Io non lo so. 25 aprile. L'abbiamo, il 25 aprile l'abbiamo fatta grossa. Ci siamo puliti i piedi con la bandiera rossa. Il culo, altro che i piedi. Così si questa cantava. Questa è una. Ce n'è tante, insomma. Ce ne sono tante. Rispolveriamo un po' di canzoni degli anni 70. Qual era quella che conosci tu? Beh, quella più famosa che cantava il Fuano, quelli della gioventù, e la scendevano in piazza. L'anima del nonno, viene fuori l'anima del nonno. Ma che nonno? Io me lo ricordo quando ero al ginnasio. Dai, forza, qual era? Il 25 aprile è nata una puttana. Gli abbiamo dato nome Democrazia Cristiana, è vero? No, non era Repubblica Italiana. Qualcuno urlava Repubblica. Sì, qualcuno all'inizio. E poi urlavate eia, vabbè, quello è. Ma noi siamo per la cultura ellenica classica. Eia, eia, la la è un urlo greco. No? Lo sai benissimo, no? Noi siamo gente di cultura. Alla Lazio, ma lo sai. È un urlo greco, è un ma che greco? Noi siamo amanti della classicità, della lingua greca, del mondo ellenico. Va bene, va bene. Traffico, torniamo subito. Ellenico, traffico. L'omosessualità c'era nel mondo ellenico, però. È vero, sì, ma non era. Non assurgeva la cosa più importante o da preferire o da privilegiare rispetto all'eterosessualità. Traffico, torniamo subito perché voglio chiedere ancora un paio di cose. Ma per esempio, la presenza della Minetti in Consiglio regionale non vi ha danneggiato in questi anni? Mi dica la verità. Sì, può darsi che ci abbia danneggiato quello che lei avrebbe mai candidato. Non avrebbe candidato in un suo listino. No, non la conoscevo una persona che non ha mai fatto politica, io non la candiderei, ma non perché fosse la Minetti. Non ci ha danneggiato la Minetti, ci ha danneggiato tutto quello che poi è venuto fuori, che è stato scritto. I media che hanno magari un po' esagerato nell'attaccare questa ragazza, che però in aula, devo dire, non si comporta peggio di altri. Ma che dovrebbe fare in aula? Non fare nulla. Io so che è una che è sempre presente dal primo minuto. Ci mancherebbe altro. In commissione. Pensa se non fosse presente, che casino. Ma c'è tanta gente che non è mai presente, o spesso non è presente, di destra e di sinistra, che si vede in campagna elettorale, è bravo a farsi leggere, e poi non ha mai fatto un intervento in aula, e poi non ha mai scritto una mozione, e poi non ha mai partecipato a una commissione. Ci sono anche questi. La Minetti almeno questo pregio ce l'ha, poi avrà mille altri difetti, ma ne discutete voi in un'altra trasmissione. Traffico. Eccoci, 800 24 00 24. In cosa ha sbagliato Formigoni nel dare del pirla al consigliere dell'Italia dei Valori Zamponi? Oppure nel rispondergli cosa? No. Non si dà del pirla a Romano Lussa a qualcuno? Zamponi? Sì, sono qua. Eccoci. Ciao. Buonasera. Stefano. Come andiamo? Ciao Stefano, sono Romano. Ma che è successo? C'è la Romano La Russa qui con noi. Sento una cosa, Zamponi, ma lei cosa vuole fare? Il giurì d'onore addirittura? Mi sembra esagerato adesso. Il pirla. No. Una sfida a duello. No, dai, bellissimo. Allora, voi che siete sempre molto documentati, dovete sapere che Formigoni in realtà non è un politico, ma è uno che ha fatto tutti altri lavori, secondo l'interpretazione. Mi ha dato del bugiardo, sì, perché io ho detto che è uno che ha sempre fatto politica e solo fatto politica. A me risulta che dal 1984, anno in cui fu eletto nel Parlamento europeo, e forse voi non eravate neanche nati, ha solo fatto politica, si è risentito di questo fatto, non so che cosa abbia, anche lui è stato contagiato dall'antipolitica, si è risentito, prima mi ha dato un insulto, poi un altro, poi ha fatto tutta una gran sorta Ma che insulto? Qual è l'insulto? Scusami. No, io sono una persona ben educata. Parolacce come pirla. Ma come che pirla è una parolaccia? Ma pirla non è una parolaccia, su. Ma Zamponi, sei un uomo di mondo. Ognuno ha il suo modo di fare. No, ma io capisco la politica, che uno voglia fare polemica, per carità, va benissimo, ci sta, però ma non è che... Ma fare polemiche? No. Vabbè, no, in politica si fanno pure le polemiche, non è un delitto. Allora, io non ho nessuna voglia di fare polemiche, io cerco di fare seriamente il mio lavoro, bene, d'accordo, di consigliere però, di opposizione. Quali sono le parolacce e gli insulti che ti ha rivolto? Scusami, Bugiardo. Sì? Vabbè, bugiardo, diciamo, bugiardo. In politica lo si dice, sei un bugiardo, dici stupidaggini. No, sei un bugiardo vuol dire hai affermato delle cose false. Io ho dichiarato. Stefano, poi ho il diritto di replica. Sì. No, ma per carità, io ho dichiarato pubblicamente che Formigoni è sotto processo, nessuno lo dice. Vabbè, d'accordo. Adesso così abbiamo fatto. È imputato in un dibattimento per aver diffamato i radicali dicendo che le schede false della sua lista le avevano manipolate loro. Poi, dopodiché, hai detto che non ha mai lavorato in vita sua, che cosa hai detto? E ho detto che fai politico di professione e perciò gli sfuggono certe sfumature. Vabbè, insomma, cose del dibattito politico quotidiano. Nessuno può dire vero o falso a seconda dell'appartenenza politica. No. Se è sotto processo. Vabbè, d'accordo, ma sì, che. Non può essere vero o falso. Va bene che è tutto relativo, ma se uno è sotto processo, è sotto processo. Per aver offeso i radicali. Però dai, secondo i radicali, però. Scusa, Zamponi, il punto non è quello. Lui ti ha dato del bugiardo e del pirla, d'accordo? E tu per questo vuol dire, la fai diventare una questione, che il presidente della giunta regionale della regione più importante d'Italia si perda dietro questo modo scorretto di tenere i rapporti con il Consiglio era regionale. Era ironico. Ma l'avete vista la faccia? Era Formigoni ha bisogno di un bel periodo di riposo. va a casa, scioglie il consiglio regionale. Questa è una posizione politica legittima, per carità. Si fa un lungo periodo di vacanza. Si fa un lungo periodo di vacanza. Scusa, ma questo giurì, siccome la regione Lombardia, siccome la regione Lombardia immagino debba e possa lavorare su qualcosa di altro e non sul pirla di Formigoni, che sarà anche esecrabile, non lo so, eccetera, io direi che questo giurì d'onore non va, come minimo non va convocato. Ma di che stiamo parlando? Ma da chi dovrebbe essere? Se io sono un bugiardo, no, ma scusi Cruciani, lei che è una persona seria. Ma se a me mi danno del bugiardo, passo avanti, mica voglio fare una commissione d'indagine. Ma allora non è una persona seria. Ma ha chiarito, Stefano, Formigoni ha chiarito perché ti ha dato del bugiardo, lo ha chiarito, lo ha detto, sei bugiardo per che poi se è possibile cercherò di elencare io le motivazioni che ha già detto in aula. Romano, scusa, vai a vederti il sito di Formigoni e cerca notizie di questi ipotetici lavori che lui avrebbe fatto. Mettere in dubbio la parola del presidente che mi dice lui ha lavorato. Siete due consiglieri regionali in Lombardia, si sta parlando di che cosa? Di problemi fondamentali per la Lombardia o di cosa ha fatto nella vita precedente Formigoni? Allora, di quali lavori ha fatti? Su. Indagati, arrestati, se vogliamo parlare. Questo è un altro argomento. Stavamo parlando del Pirla. Ma no, ma questo. Oggi stavamo parlando di far fare un passo indietro al presidente Boni dalla lui non si vuole dimettere perché pensa di essere innocente. Quelle le vostre sono posizioni politiche. E la maggioranza Lega PDL gli ha consentito tranquillamente di restare in carica. Ho capito, ma non è cose serie. Ma no, secondo voi, scusi Zamponi, il presidente della regione più importante può essere soggettato a indagine e contemporaneamente dirigere serenamente regionale? Ma non c'è nessuna indagine a carico del presidente. Sì, però stiamo parlando di un'altra. Nessuna. Ma sì, ma quella che riguarda i radicali, insomma. Ah, vabbè, l'offesa ai radicali, ma dai. No, avrà dato del pirla. Zamponi, lei si è offeso per il pirla, si è offeso, mi dica la verità. Ma proveniendo da Formigoni no. Perché? Me l'avesse detto una persona che stimo mi sarebbe dispiaciuto. E perché lei invece non stima? Me l'avesse detto David Parenzo mi sarebbe dispiaciuto. Scusi Zamponi, lei come? Non lo stimo, per cui non mi fa non lo stima proprio, cioè non lo rispetta nemmeno. Ma io lo rispetto perché riveste una carica istituzionale. Secondo me farebbe bene ad andare. Ma quella è una posizione politica? Quella va bene, cioè, per carità. Dopodiché la stima è una cosa, il rispetto è un altro, no? Vabbè, lo sa che la Russa, quando un po' di anni fa andava in giro davanti al Tribunale di Milano con la maglietta di Pietro Sindaco e ha detto che la rimetterebbe anche adesso? No, non l'avrei rifatto nel contesto storico-politico del 90. Non si pente di averla messa, quella maglietta di Pietro Sindaco, 92 stiamo parlando, 92-93. Lo conosco bene, Romano La Russa ha fatto il consigliere comunale di opposizione con me per 5 lunghi anni. Lui era democristiano come Formigoni e nell'84, quando Formigoni fu eletto al Parlamento europeo per la prima volta, lui da buon democristiano votava Formigoni. Ha capito? No, votavo Democrazia Cristiana. È uguale. Per questo ti potrei querelare, attenzione. Però eri dalla stessa parte di Formigoni. Certo, io riconfermo di essere un democristiano onesto. Perché invece Formigoni, certo, cosa c'entra? Formigoni e Cielline è un'altra cosa, è tutta un'altra storia. E anche Cielino non c'entra niente con la politica. Cielino è democristiano, era democristiano come te, ma non c'è niente. Per fortuna ha preso una strada diversa dalla tua. Devo salutare Zamponi. Era il movimento popolare. Sì, Zamponi, è un'altra storia. Grazie, a presto, non si offenda troppo per il pirla. Allora devo chiudere con Romano La Russa e chiudo. Ma su questo proprio sintetizzando. No, che dobbiamo sintetizzare? No, ma perché dice gli ha dato del bugiardo perché gli ha detto che non aveva mai lavorato in vita sua. E Formigoni, ha elencato il professore, ho fatto l'assistente universitario, ho fatto il giornalista. Ha fatto soprattutto politica. E poi ha dato del pirla e ha citato più di una sentenza del tribunale dove dice pirla non è un'offesa. La cosa era fatta e detta in modo ironico, poi lui ha risposto, quindi esagerando, probabilmente gli animi si sono un po' surriscaldati, ma sino alla fine il clima, almeno da parte di Formigoni, era assolutamente ironico e come tale doveva prenderla. Se tornasse all'Alleanza Nazionale sarebbe contento? Ma può darsi di sì, però è una cosa molto improbabile, e noi abbiamo fatto una scelta 3 anni fa di andare però verso il di popolo nuovo. No, sarei contento se le idee di Alleanza Nazionale, le idee della destra. E l'inno del PDL le piace, il nuovo inno mitico del PDL? Ma no? È una cosa del tutto secondaria, non forse mi non, l'ho neanche altro, senti, eh. Non l'ho neanche sentito con attenzione, certo, sono altri gli inni che piacciono. A me piace l'inno di Mameli, fregato. Un altro. A me piace l'inno di Mameli. Un'altra canzoncina più di ogni altra cosa. Lei piace un'altra canzoncina, vero? Un'altra canzoncina che si chiama Faccia Faccetta Faccetta. Sì, faccetta. Anche, vabbè, ma quella fa parte della storia faccetta. Dell'impero della volontà italiana e del grande cuore italiano che andava A lei piace questo, E perché no? Ricordiamo qualche. A lei piace molto Faccetta Nera ancora? Sì, perché rappresenta. La metto ogni tanto di sera, ogni tanto. Sì, ho un CD che ogni tanto lo ascolto, non solo questa, tante, ma più che altro la musica alternativa degli anni 70, dei nostri cantautori, dei nostri complessi, gli Amici del Vento, per intendere. Insomma, le musiche del fascismo ancora le ascolta lei nell'iPod? Rarissimamente, ma quando le ascolto mi fanno piacere, certamente. Perché sono anche belle, alcune sono bellissime, non belle. La più bella qual è? E questa è una delle più belle. Poi, magari ci fosse questo come inno di partito, magari ci fosse questo. L'inno degli universitari, per esempio, Fuoco di Vesta, che dal tempio fuori. Se non la canto non me la ricordo. La Fuoco di Vesta, che fuori dal tempio, eccetera. Com'è? Ma pubblicità e borsa. Grazie a Romano La Russa. Grazie a voi, buonasera a tutti. Siamo qui, intanto momenti cruciali per la riforma del mercato del lavoro. Il Presidente del Consiglio Monti ha detto che sono tutti d'accordo sulle modifiche dell'articolo 18, tranne la CGIL. E io personalmente aggiungo, insomma, se ne può fare anche a meno, no? Cioè, se ne può fare tranquillamente a meno. PD è compatto nella riforma, nell'abolizione dell'articolo 18. No, sono tutti d'accordo. Io credo che intenda il governo e le parti sociali, non i partiti. Ah, ecco, il tavolo di confronto. È una situazione che però mette in seria difficoltà il Partito Democratico, mi sembra evidente, perché certo, se il Partito Democratico aderisce alla proposta del governo su cui non è d'accordo la CGIL, si crea, secondo me, meno male, una bella frattura tra il Partito Democratico per la prima volta no, ci sono stati altri momenti, ma in questo caso con Bersani segretario c'è stato un asse molto forte tra lo stesso Bersani e la Camusso, dunque se si crea una differenza di vedute, secondo me anche giustamente, si può creare su questo tema, insomma, direi che è una svolta, ma insomma adesso vedremo l'evoluzione della situazione. Comunque Monti, tutti d'accordo tranne la CGIL, sentiamo la Fornero che sta parlando. Più che è un contributo che noi utilizzeremo sta entrando nel dettaglio che è l'indennità di disoccupazione. Anna da Firenze, quindi, anzi prima c'era Francesco da Foggia, buonasera. Buonasera. Vada. Senta, ho ascoltato la trasmissione e diciamo, riflettevo sul fatto che è stato così duro con il delegato Fiom. E così invece molto molto tranquillo. Duro, ci siamo messi a ridere, quale duro? Di che sta parlando? Non mi pare che ci siamo stato duro, ci siamo confrontati sul fatto, sulla libertà di licenziamento, sui paletti, eccetera. Per me invece la sensazione di chi ascoltava la radio sarebbe lei che è stato duro. Bene, e allora? È stato invece altrettanto, o in diverso modo, molto molto più tranquillo con quello che è stato Romano, con tutte le cose che ha detto, dai gay al volevo farlo parlare al ventennio. Volevo farlo parlare, qual è il problema? Io a un certo punto ma problema, lei può fare la trasmissione come vuole, meno male, e io posso fare tutte le considerazioni infatti le sta facendo liberamente. C'è una trasmissione in cui uno interviene esiste una trasmissione al mondo probabilmente sì, in cui lei interviene e dice lei sta dicendo delle stupidaggini, non sono d'accordo con quello che dice, dovrebbe fare questo piuttosto che quell'altro. Esiste o non esiste? Io dico, ma io non ma esiste. Non è una cosa che mi interessa. A lei non interessa, a me sì. A me interessa invece. A me interessa. Quindi le considerazioni che facevo è che insomma l'ambulanza avrebbe potuto chiamarlo. Benissimo. Comunque era necessario. Benissimo, io invece la chiamo quando mi pare, in questo caso non la voglio chiamare. Non l'ho voluta chiamare. Quello che vuole, è libero di fare quello che vuole. E infatti, Francesco, non c'è con problema. Con altrettanto libertà. parlamentare e faccio le mie considerazioni. Ma infatti lei fa bene a fare le sue considerazioni, pensa che io sono stato duro con Cremaschi e invece morbido con la Russa, sì, sì. Può darsi, ma c'è una spiegazione che adesso non mi va di darle, perché è una spiegazione, sì, non la voglio ascoltare, è una capacità buon lavoro, di tirar fuori buon lavoro. È una a lei non la vuole nemmeno ascoltare, allora scusi, che ha chiamato a fare se non vuole ascoltare la spiegazione? Va bene, salve, buon lavoro. Scusi, che ha chiamato a fare se non vuole ascoltare la spiegazione? Non ho capito. L'ho chiamato per dire quello che pensavo. Dunque, quello che ho da dire io non le frega niente. Assolutamente quando... no, può continuare a casseggiare. Benissimo, Francesco, complimenti. Salve. Complimenti, le faccio un bel applauso. Vincenzo da Napoli. Sì, per dire, Noè. Vincenzo? Sì, pronto. Vada. Eccoci qua. Buongiorno, riguardo alla corruzione della politica, quello che si è letto questa settimana, negli ultimi 20 anni, volevo semplicemente dire che la corruzione in politica in Italia è un po' come il doping nel ciclismo. In pratica ci sarà stato un primo, sì, ciclista che si è dopato, ha vinto il Giro d'Italia, il Giro di Francia, la competizione, un altro ciclista l'ha scoperto, piuttosto che denunciarlo, si è dopato pure lui, ha continuato a vincere, e così via. Allora? Una semplice considerazione. Va bene, grazie. Valerio da Roma. Non c'è più, Marco da Lucca. Sì, salve, buonasera. Vada. Senta, volevo dire una cosa riguardo l'articolo 18, no? Praticamente, sì, questi politici, sì, no, che fanno e sfanno, praticamente, no? Decidono tutto sul nostro futuro, no? Sì. Però loro, sulle loro garanzie politiche, nel senso di avere il posto fisso, stipendio, vitalizi, eccetera, no, per loro va tutto bene. Questo non è una bella cosa. Non ho capito bene, decidere. Scusi, non ho capito. Nel senso, io dicevo, è facile decidere sugli altri. In questo per forza momento. Che decidono sugli altri, sono chiamati a questa cosa esattamente per questo motivo. Certo, però decidono gli altri direttamente loro, anche su se stessi, perché non è certo, che cioè io ci mancherebbe, però dico su loro, diciamo, quando è venuto anche il fatto il fuori degli stipendi, che se dovevano ridurre, che mi pare che non hanno fatto nulla, no? Se non sbaglio, giusto? Beh, qualcosina è stato fatto, certamente non a sufficienza. Allora? Ascoltatore ha ragione, cioè sono talmente furbi che legiferano non sulle loro sorti ma su quelli che verranno, cioè gliela mettono nel cesto, dice ai deputati della prossima, a partire dalla prossima, esatto, ve lo prenderete nel cesto, quindi ha ragione, esatto, il radioascoltatore quando parla di incoerenza. A me va benissimo riformare l'articolo 18, però non ci vengano a spiegare che i sacrifici li fanno anche loro, perché questi qua seduti con il loro sedere lì non hanno fatto manco mezzo sacrificio, perché vale tutto sempre per gli altri. Ha ragione. In che senso vale per gli altri? Non ho capito bene. No, perché le norme sono sempre in vigore, dice riduzione del numero parlamentare. Ah, molto bene, ma da quando? Dal 2014. Bene, riduzione degli stipendi dei vitalizi, ma da quando? Dal 2022. Beh, vedremo innanzitutto. No, ma vedremo. È sempre così, finora ha ragione, è sempre stato così. Su di loro non si sono mai, dice non si può, sono diritti acquisiti. Stabilito, il vitalizio non è un diritto acquisito, puoi riformarlo tu, che è il legislatore. No, ma io sono d'accordo con te, E allora ha ragione il radioascoltatore quando dice che alla fine questi decidono sul nostro destino, e va benissimo, ma oggi sul destino nostro, di noi, oggi, hic et nunc. Sì, no, ma io sono d'accordo con te, bisogna intervenire, cioè bisogna che intervengano anche sul loro destino, che poi cioè sui loro stipendi, sulle loro pensioni. Sto arrabbiando sul treno di nuovo qui, aspetta. Ma chi se ne frega? Passami qualcuno che si arrabbia. No, passami. Un gruppo aperto che ne passo subito, scusa. È il direttore di radio, è il signor Cruciani. No, ma perché alla radio in diretta, scusi, perché mi sono un po' accalorato. E sono arrabbiato perché stavano parlando al telefono tra di loro e dicono che ho urlato. Vabbè. Eh no, ma fammi sentire queste signore che si arrabbiano, scusa. No, non parlare con te, hanno detto, non ti conosco. Ma no, ma metti, fai sentire, ma fai finta, non ti devo insegnare tutto, mettiti là accanto, posso, fai finta. Metto, sono arrabbiatissimo. E appunto. Ma come appunto? Tutte le volte che faccio un viaggio devo rischiare la vita, perché? Ma non devi rischiare la vita, devi semplicemente affrontare il pericolo, sfidare il pericolo, metterti là accanto e parlare con queste persone. Lo vuole salutare al telefono, guarda, aspetta. Le vuole parlare al telefono, signor Cruciani? Ma no, perché dice che vuole scusarsi a nome della radio. Lei che deve scusare, non è lui, è lei che sta gridando. No, perché è il signor Cruciani che mi chiede di fare la parola. E va bene, niente, non vuole parlare, va bene. Anna da Firenze, buonasera. Sì, Buonasera, mi spiace però perché io volevo dire una cosa alla russa, effettivamente è andato, no, siccome parlava con tanto entusiasmo della sua maniera, con tutti i suoi cosi, e che ha detto che era sempre stato un gran democratico, volevo sentire se accettava la mia di Bacheche per mettere accanto alla sua. E che c'ha lei in Bacheche? Ah no, io ho un proiettilino di mio padre, ammazzarono quando avevo 10 anni, le camicie nere come si vantava di avere addosso il signore, e poi c'ho un bastone, un manganellone che picchiavano mio padre, e ogni tanto l'ho recuperato in casa di questo fascista, e quando passava per strada e quando lo portavano via, insomma tanti cimeli un po' diversi dai suoi. E vabbè, ma ognuno ha i propri gusti, ognuno ha i propri gusti. Se se lo voleva mettere accanto, ora che l'appunto è andato via, e praticamente... Ma che dovrebbe mettere accanto? Un altro tipo di cimeli? Un po' di democrazia. Ah, un po' di, lei dice, di simboli democratici. Sì, un po' di simboli democratici accanto a suo, siccome ha detto che è nato democratico, insomma, è che mi ricordo io, non è che faceva solo loro facevano solo manifestazioni molto, molto pacifiche, insomma, non si va in galera per fare. Allora, almeno quando veniva qualcuno in casa aveva un emblema della democrazia, se tiene soltanto con tanto entusiasmo quelli lì, qualcuno può dar fastidio se va a trovarlo. Certo, andranno tutti. Signora Anna, passiamo alla sua telefonata e le sue proposte al signor Romano La Russa. Abbiamo traffico, torniamo subito. Beh, una delle frasi chiave della Fornero, un attimo solo, un attimo solo. Pronto? Cercavo il signor Pupo. Non c'è, chi lo vuole? Sono Giuseppe Cruciani, Radio 24. Parenzo, salve. No, non è raggiungibile, mi dispiace. Dove lo possiamo raggiungere? Perché sono un giorno... Vabbè, la moglie. Ti avevo detto che era meglio fare con la tecnica mia. Tanto sempre la signora risponde. Comunque, una delle frasi chiave della Fornero di una riforma del lavoro che ancora va tutta costruita è questa: il governo non vuole smantellare le tutele dei lavoratori, ma rendere meno blindato il contratto subordinato a tempo indeterminato. Questa è la frase chiave che ancora mi fa tenere ferma sul comodino l'effigie della Fornero. Per ora è aria, che vuol dire? Ci sarà un provvedimento che verrà presentato in Parlamento. Io ho detto come è strutturato, come si concretizza. Vabbè, bisognerà tutele. Sì, intanto quanti soldi in più? Intanto il principio è non fare il solito demagogo. Parenzo, abbi pazienza. La cosa è questa: rendere meno blindato il contratto subordinato a tempo indeterminato. Questo è l'obiettivo. Il resto vedremo. No, il resto importante è pagare di più, però chi avrà quel contratto? Ma lei l'ha già detto, pagare di più il contratto determinato. Donato dalla... Sì, nessuno lo nega. Donato dalla provincia di Bari. Solo questo, dico. Sì. Donato? Sì. Bada. Cruciani? Sì, fino a prova contraria, sì. Ah, mi fa piacere. Perché, senta, io tre parole voglio dire. Tre. Se questo governo ci sta mettendo alle strette, sono tre. Sì. Proprio stasera ho sentito alla radio che persone vanno a rubare al supermercato per mangiare. Lei dice? Persone che vanno a rubare al supermercato per mangiare. Sì. Ma dove arriveremo così, Cruciani? Dove arriveremo? Che ne so, dove arriveremo? A me mi fanno ridere questi sindacati, mi fanno ridere. Che vanno con le bandiere, i fischietti e i striscioni a ballare, a fare tutto il palazzo di governo. Qui bisogna scendere con le armi in piazza. Con le armi, no. Con le armi. Con le armi, Ma lei ce l'ha l'arma? Sì. Lei ce l'ha l'arma? Sì, ce l'ho. E che c'ha, scusi? Che arma ha? Ce l'ho l'arma. E che arma ha? Mi spieghi che arma ha? Sono fatti miei che arma ho. No, scusi, se mi dice che ha un'arma in casa, adesso mi dice che tipo di arma ha. No. Non me lo vuole dire, che c'ha un fucile, una pistola, cosa? Una carabina, ma ha il porto d'armi oppure la tiene così nascosta? No, c'ho il porto d'armi, c'ho tutto. C'ha tutto. Ma da quale ospedale chiama, scusi? E come vorrebbe utilizzarla questa carabina? Da quale infermeria chiama, scusi? Ma non lo so. E che ne so, si è fatto un'idea, no? L'ha già caricata la carabina? Io direi soltanto una cosa. No, ma l'ha caricata sta carabina o no? Ma chi dica la polizia? Oddio. Tutti gli italiani. Tutti gli italiani con le armi, questo ho capito, d'accordo, Donato, però scusi un attimo. No, lei... Ma guarda che è gravissimo. Aspetta un attimo, stai fermo. Ce l'ha la carabina. Sta zitto a quello Ricchione là. Lo faccio stare zitto a Ricchione. Come ti permette quello? Ricchione, stai zitto. Donato, l'ha caricata sta carabina o no? Quando mi serve la carica? No, ho capito, ma la sta già preparando, ce l'ha le cartucce. Corsia 4, urgente in corsia, prego. Stai zitto, Ricchione, le cartucce corsia ce l'ha pronto? Ce l'ha pronta le cartucce? Cruciani, non scorziamo su questo coso, non scherziamo. Ma che lei, gli italiani dico... sono davvero stanchi, gli italiani, di sto pezzo di merda di Monti, di quel bastardo di Napoletana e di quelle puttane della Fornera e quelle altre. Un giudizio... Portatelo via subito. Cruciani, sai che facevano in Romania? Che facevano in Romania, mi dico? Dracula, sai che faceva? Sì. L'impalava su un palo. Sì, e lei corsia 4, è urgente. Sì. Corsia 4, Radio 24, allarme immediato, ripeto, allarme immediato, c'è un delirio in corso, puntura di 45 mg più 75 bis, portatelo via. Donato, ha sentito Parenzo? Quello fa schifo proprio Parenzo, io se l'avessi davanti a me i calci nei denti lo prenderei, ma va brutto, eh? Portatelo via perché la situazione è molto grave. Portatelo via, ti devono portare via, pezzo di merda. Stai legatelo a letto subito, molto grave, arrivano gli infermieri, arrivati in 8 per cortesia. 8. Devono arrivare gli infermieri, ma con la testa spaccata in 4. Portatelo via subito, flebo immediata. È partita. Vabbè. Fategli una flebo, va? La saluto. Donato. No, la saluto. Stia fermo, sì. Non è che stiamo arrivando. Ma la carabina? Non si preoccupi, ce l'ho. Ho capito, ma è una cosa importante. Le cartucce, la comprate o no? Ce l'ha pure le cartucce? Sì, o no? C'ho tutto. Ma la flebo. Ma dove vorrebbe andare? Sotto Palazzo Chigi con la carabina? Dove vorrebbe andare? Sotto il palazzo del governo. Va bene, adesso intanto è stato legato un bel letto. Dove si... Adesso italiani, finirà su un bel letto legato. Dove si trova? Perché non ce la facciamo più, la benzina aumenta. Senta Parenzo. Guardi, l'unico posto dove adesso lei finirà è in un bel letto di ospedale, legato, con una flebo e sedato. Questo è quello che succederà. Parenzo, vedi che se ti trovo davanti vai a finire tu all'ospedale. Non si preoccupi, no? Che stiamo arrivando a legarla. La leghiamo al letto, amico mio, ma lo facciamo per lei. Provincia di Bari dove? Provincia di Bari. Dove? Dove? Putignano. Portatelo via. A domani 18:30. Se ti piace così, cioè se ti piace questo spettacolo quotidiano, ma tienti questa roba qua. Ti piace così? Va bene. La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu.